briciola, soffice di pane, nuvola, fatti accarezzare dai miei sospiri, lasciati cullare, in un abbraccio ti proteggerò, con un tuo sguardo mi difenderai. Oh sì, mi difenderai, semplicemente perché è così che vuoi. Abbiamo perso il nostro tempo, ora dipende solo da noi. Non siamo eroi, non siamo eroi. Anima, pioggia nel tuo giardino, luccica e sei il mio paradiso, ciò che il mio cuore non sperava più, e a denti stretti ti difenderò, con le tue labbra mi proteggerai. Semplicemente perché è così che vuoi. Abbiamo preso il nostro tempo, ora dipende solo da noi. Non siamo eroi, non siamo eroi, ma siamo vivi noi. Anima, soffice di pane, nuvola, pioggia nel mio giardino, briciola, sei il mio paradiso, ciò che il mio cuore non sperava mai.